La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:07 primi e 59 secondi in diretta dagli studi di Milano. Una Milano, posso dire finalmente, che sembra, la temperatura non ancora, è troppo alta, ma che sembra almeno un po' autunnale dopo questa lunghissima estate. Vi saluto e vi ringrazio come sempre per l'ascolto in diretta in podcast Oscar Giannino, e vi dice subito di che cosa ci occupiamo oggi, nel caso graditissimo in cui voleste chiamarci all'800 24 0024, lo sapete, per l'opinione SMS 349 238 6666. Ecco, oggi uniamo insieme due questioni che però sono unite da uno stesso filo rosso. Il filo rosso è i numeri nel nostro paese. Quando si tratta di cose delicate che riguardano la salute, nella prima parte ci occuperemo dell'inquinamento, nella seconda parte ci occupiamo della polemica che va avanti da tempo ma che è riesplosa ieri a proposito della certificazione, dell'etichetta di certificazione del grano con cui si produce la pasta e naturalmente si vende la pasta nel nostro paese. Ecco, in entrambi i casi, quindi due vicende che sono accomunate dall'effetto sulla salute, ma che avvengono in due ambiti molto diversi, però c'è un comune punto su cui, con lo scrupolo che il gruppo Sole 24 Ore, questa radio è in piccolissimo anch'io, tentiamo ogni volta di richiamarvi alla logica dei numeri per capire i fatti. Poi le opinioni possono essere le più fondatamente diverse, per carità, però un paese in cui non ci sono strumenti quantitativi per descrivere i fenomeni condivisi, perché ognuno spara numeri, se ricrea a caso, diventa un paese nel quale tutto è relativo. Tutto è relativo, a cominciare da una cosa che, diciamo, la scienza moderna, dai tempi in cui c'era scienza sperimentale e dai tempi in cui non crediamo più alle autoritates aristoteliche, dovrebbe averci insegnato e consegnato come patrimonio condiviso il fatto che invece i numeri per descrivere la realtà, sia pure alla luce del principio di indeterminazione di Heisenberg, diamo tutto per scontato sul fatto che anche nella descrizione dei fenomeni fisici abbiamo gli strumenti per capire quali sono gli intervalli di variazione che dipendono dalla nostra capacità di rilevarli alterandoli. Però, detto tutto questo, se non si hanno strumenti condivisi per descrivere nemmeno i fenomeni che possono portare a rischi per la salute, beh, stiamo veramente perdendo uno dei fondamenti della modernità, che è appunto quello scientifico. Poi questo noi lo applichiamo anche alla contabilità pubblica, ai numeri dell'economia, eccetera, però oggi ci occupiamo di questo. E nella prima parte, quindi telefonateci soprattutto se siete torinesi, ma non solo torinesi, ci occupiamo di questo altissimo livello di allarme che si è suscitato in particolare a Torino, perché il tutto è nato da una fotografia spaziale che faceva vedere questa nuvola sul nord Italia, in particolare sul nord ovest, e che era accompagnata da chi scattava la fotografia, l'astronauta italiano che scattava la fotografia, che diceva: beh, certo, lì o è nebbia o è smog. È diventato automaticamente smog. A Torino le autorità locali hanno iniziato a dire: gli anziani non si affacciano alla finestra. Io da torinese ho iniziato a ricevere telefonate di amici che dicono: porto via mia madre, ma cosa sta succedendo? E così via. Ecco, il fenomeno sulla stampa generalista e immediatamente si è tradotto in una cosa di allarme generale. Cosa stava succedendo? Certo, le condizioni climatiche dell'alta pressione, come sappiamo, concorrono sulle polveri sottili a tenere l'aria, tra virgolette, con gergo tecnico, non tecnico voglio dire, meno pulita, ma la questione è che nel giro di un giorno si è diffuso un allarme totale. Allora, il problema non è dire l'allarme è sbagliato, il problema è di capire con dei numeri precisi in presenza di che cosa siamo, come trend di medio-lungo periodo, per capire che cosa poi succede adesso. Oggi Chiamparino stamattina, per esempio, l'ex sindaco, poi presidente della regione, dice: no, ma qui l'allarme è ingiustificato. Però, essendo poi ovviamente un politico, uno può pensare: ma sì, perché non è lui il sindaco dei 5 Stelle, magari ci dice una cosa per l'altra, e quindi la gente non sa più cosa pensare. Allora, ieri pomeriggio, quando ho visto che un bravissimo collega del Sole 24 Ore ha iniziato a lanciare un po' di dati dicendo: guardate, prendetela come volete, ma questi sono i i dati, mi sono detto, ecco, che sia benedetto chi, come al solito, tenta di ancorare gli allarmi, le opinioni, quello che volete voi, ma intanto ha una realtà fattuale, che è quella che ci consegnano le serie storiche per capire di che cosa siamo in presenza adesso. E ce l'ho qui in studio e molto lo ringrazio, perché gli stiamo rubando metà del tempo a quello che poi deve fare, quindi questo per lui è un impegno in più non previsto contrattualmente, per così dire, però grazie. Jacopo Giliberto, colonna del Sole 24 Ore, grazie di essere con noi, Jacopo. Grazie a te, Oscar, e grazie a tutti. Allora, naturalmente i nostri ascoltatori non hanno di fronte a sé una scissa, un'ordinata con dei grafici per farglielo capire, però tentiamo di capire. Questi dati che tu ieri hai richiamato, che cosa ci dicono? Ci dicono che negli ultimi 20-30, secondo la scala di tempo che vogliamo scegliere, negli ultimi decenni l'inquinamento nelle grandi città dell'Alta Italia, in particolare Torino e Milano, ma valgono come indicatori per tutta l'area padano-veneta, l'inquinamento sta scendendo in modo molto molto sensibile. Negli anni 50 e 60, io sono nato negli anni 60, l'inquinamento era molto più alto. Tu di dove sei? Io sono di Venezia, di Laguna. Venezia. No, perché prima che ti inoltri, io metto questa piccola testimonianza personale. Io sono torinista, è noto, vabbè. Però quando per la prima volta in bicicletta, vi sto dicendo una cosa che avviene nel 1966, 67 forse, non oltre, sono andato sulla Laguna di Superga con ragazzini che erano più grandi di me, perché per me, per il quartiere Mirafiori dove sono cresciuto, significava attraversare la città, era un viaggio, poi c'avevo una bicicletta pesantissima per salire sopra Superga. Era la prima volta che ci andavo e per la prima volta vidi Superga, stiamo parlando di poche centinaia di metri di altezza, da quell'altezza molto relativa vidi la città in cui vivevo. Ecco, Torino all'epoca aveva una fascia nera proprio, e non erano polveri sottili, erano scorie dirette del fatto che a Torino c'erano a quel punto, per esempio, ancora 3 impianti siderurgici in città, quelli della Texid per la Fiat e così via. C'erano scarichi industriali nell'aria incredibili, gli impianti di riscaldamento, io sono cresciuto quando ero piccolissimo, avevamo ancora stufa e fuochi a carbone, lo ricordo sempre, tanto per dirci qual era il tipo naturalmente di emissioni. Poi passammo alle stufe a cherosene, poi quando ci fu la crisi del 74 sparì il cherosene, era lunga prima che arrivasse il metano, tanto per dirvi. Ma detto questo, ecco, quella coltre nera che mi colpì in maniera terrificante quando ero ragazzino a Torino e nelle città industriali del nord non c'è più, ma proprio non c'è più. Ci sono certo le polveri sottili, altre cose di cui adesso vedremo con Jacopo Giliberto, però intanto, come dicevi Jacopo, da allora hai voglia, passi avanti. Sì, sì, no, di anno in anno scendo, sì, poi ci sono delle leggerissime variazioni, c'è magari un anno in cui c'è un leggero aumento di un composto o un leggero aumento dell'altro composto, a volte sono le polveri, a volte l'anidride solforosa, ma sono appena ritocchi all'interno di un andamento che sui 5 anni, sui 10 anni, sui 15 anni, sui 20 anni è una... appunto un grafico in ascissa e ordinata, fanno vedere una caduta molto veloce dell'inquinamento a partire sostanzialmente dagli ultimi 20 anni, cioè chi è nato 20 o 30 anni fa respirava un'aria molto molto peggiore di quella che respiriamo noi oggi. E questi grafici, se non ci volete credere, voi li trovate se andate sui siti delle agenzie regionali per l'ambiente, li trovate puntualmente lì, cari innanzitutto colleghi dell'informazione, perché forse bisognerebbe guardare anche quelli che richiamava ieri Jacopo Giliberto, vengono appunto dall'ARPA del Piemonte, dalla provincia di Torino, dall'ARPA della Lombardia, cioè i dati ci sono e ci dicono questo, perché c'è stata un'evoluzione, non solo la crisi o ohimè industriale, ma il fatto che un bel po' di combustibili non si usano più, se ne usano altri e così via. Ma il miglioramento però è molto molto significativo. Naturalmente entriamo poi a capire un'altra cosa. Noi abbiamo avuto un modello di, tra virgolette, sensibilità per l'inquinamento atmosferico Diciamo, nel mondo avanzato, si divide in due grandi categorie: il mondo italiano ed europeo, per cui è stato il CO2, l'emissione di CO2, ciò a cui abbiamo ancorato i grandi progetti, i grandi piani pluriennali di riduzione delle emissioni. Negli Stati Uniti, per il fatto che l'industria automobilistica aveva caratteristiche di propulsione radicalmente opposte dalle nostre, noi siamo i leader del diesel, con più del 50% storico del nostro mercato in diesel. Negli Stati Uniti il diesel ha sempre rappresentato una percentuale pressoché insignificante. Per loro invece i grandi piani pluriennali, più che sul CO2, sono sugli ossidi di azoto. E questo spiega anche perché poi è stato uno dei motivi con cui è esploso il Dieselgate. Quindi non stiamo dicendo che nell'atmosfera del nostro paese, delle grandi città del nord, anche di Torino in questi giorni, non ci siano particolati, le polveri sottili, a seconda della loro consistenza proprio in termini di micrometri, si dividono in diverse categorie, e ossidi anche di azoto. Ma il CO2 è iper significativamente ridotto, anche perché nel frattempo le diverse classi Euro 2, Euro 3, eccetera, eccetera, di autoveicoli hanno anch'esse, sia pure con aggiramento da parte delle case produttrici, molto abbattuto le emissioni nelle città, no? Assolutamente sì. Un'auto Euro Zero, una vecchia Fiat, una vecchia Alfa Romeo, ma non di tantissimi anni fa, parlo degli anni 80, primi anni 90, inquina quanto una ventina di auto di nuova concezione. Vuol dire che è come se dall'aria delle nostre città fossero uscite 20 volte le automobili che circolano adesso. Oh, naturalmente c'è poi questa dannata caratteristica che fin dai tempi del vecchio rischiatutto, chi è più vecchio come me si ricorda il vecchio rischiatutto, quello di Buongiorno, in cui ci fu un campione che andava per la maggiore nelle cronache popolari perché aveva l'idea di come risolvere il problema della nebbia nel nord, dicendo basta spianare il passo del Turchino in Liguria. Ma al di là della fantasiosità di quel rimedio, c'è la questione che in effetti, soprattutto in presenza di condizioni climatiche e di alta pressione, effettivamente il nord subalpino diventa un catino. Climaticamente è una delle zone peggiori sicuramente d'Europa, perché è una caratteristica fantastica per le colture avere terreni sempre belli umidi, però è una iattura per i nostri polmoni, perché non si disperdono gli inquinanti, non si disperde l'umidità, non si disperde un sacco di cose, anche quelle che si formano naturalmente. Cioè, se oggi fermassimo le nostre città, gli autobus, i treni, i filobus, le automobili, spegnessimo gli impianti di riscaldamento, naturalmente continuerebbe a formarsi quella forma di particolato, di sostanze, di ossidi d'azoto che si sviluppano dagli allevamenti, dalle attività agricole, da qualsiasi cosa, basta anche la pioggia sahariana che ci lascia quella leggera patina rossa, anche quella diventa, dopo qualche giorno, diventa picchi molto rilevanti di polveri fini, e queste non se ne vanno, si accumulano di giorno in giorno, continuano ad aggiungersi a quelle del giorno prima, a quelle di due giorni prima e così via. Diciamo che l'informazione spesso, e lo diciamo sulla base del fatto che poi c'è chi scientificamente si deve porre il problema dei dati diffusi in presenza di queste particolari circostanze, che diventano automaticamente a catena rilanciati da tutti i siti di informazione o dai maggiori, ovviamente, e poi capita che bisogna smontarli, solo che quando li si smonta poi scientificamente l'effetto non è lo stesso, perché come ovvio l'allarme viene rimbalzato con le grandi cifre di rischio e va per la maggiore, mentre invece poi le revisioni scientifiche finiscono nella migliore dei casi in corpo 1, ma di solito non è così. Però è il caso di dire ai nostri ascoltatori che è abbastanza purtroppo frequente sistematicamente il fatto di studi o stime di quante vittime potenziali o reali si devono all'inquinamento, che nell'informazione vengono totalmente stravolte. C'è per esempio un esempio che hai fatto tu stesso, uno studio di Lancet che diceva l'inquinamento può essere la causa di 9 milioni di morti premature nel mondo, 15 volte più di tutte le guerre che sono in corso. È una notizia di oggi, di ieri, pubblicata dall'Lancet, ma che oggi viene rilanciata da siti web, da agenzie di stampa e da commentatori politici. Ecco, però se uno va a leggere lo studio di Lancet... Ecco, io non capisco, si sono tutti letti quelli che citano l'abstract, il riassuntino, e poi quando si tratta di registrarsi sul sito dell'Lancet e andare a leggersi che cosa, io sono andato alla fonte. Allora, che cosa ci dice questo studio dei 9 milioni di morti? Sì, è vero, 9 sono stime naturalmente, non si può sapere esattamente, però su base epidemiologica si può statisticamente immaginare che cosa dice? Dice, primo, l'inquinamento non è l'inquinamento dell'aria come hanno inteso gli italiani. L'inquinamento vuol dire la contaminazione dei suoli, la contaminazione dell'acqua, la contaminazione degli alimenti e anche dell'aria. Punto primo. Punto secondo, la maggior parte di questi 9 milioni di morti stimati nel 2015, secondo lo studio di Lancet, vengono dall'aria domestica. L'aria domestica che nelle baracche, nelle favelas del mondo, viene contaminata dalla combustione della legna che si usa sul focolare per cuocere o per riscaldarsi. Secondo elemento di morti e di contaminazione di inquinamento è l'acqua contaminata. L'acqua che sempre in questi paesi poveri viene prelevata e bevuta da dove? Dagli abbeveratoi, dai pozzi rurali, dalle pozzanghere fangose che vediamo nei documentari. Stop. Quindi, come vedete, anche qui fare l'uso di questa stima The Lancet collegandola a quello che sta avvenendo a Torino, ecco, diciamo che non è che un'improprietà, dovrebbe essere una cosa di fronte alla quale anche il caporedattore munito dei più elementari criteri per fare il nostro mestiere dovrebbe dire: no ragazzi, non si può fare. Primo, ce ne andiamo a vedere che cosa c'è scritto, non è l'abbastanza. Secondo, è una stima complessiva di questi fenomeni che, ohimè, sono ancora diffusi nel mondo, ma che c'entrano molto poco con il fatto che poi, se uno va a vedere delle aree invece di cui ci stiamo occupando, queste urbane del nord con questo problema di smog eccetera eccetera, in realtà la durata di vita è più lunga di quelle naturali in cui avvengono queste cose. Ma sì, ovviamente lo smog vittime ne fa, provoca assolutamente patologie polmonari, le pro, cioè non è di cosa. Assolutamente fuori dubbio, non voglio fare il negativo azionista lì dove non ha senso, però mettiamo un attimo i puntini là, come facciamo? Allora, abbiamo l'inquinamento più alto d'Italia, si trova nella pianura padana, dal Piemonte al Veneto, dall'alta Lombardia fino alla Romagna, no? questa e grande in questo area. Caso parliamo di atmosfera, parliamo di aria, l'inquinamento più alto è in questa zona. Ebbene, dal punto di vista della speranza di vita, dati Istat 2014, ho preso solo le donne, è un po' diversa la scaletta per i maschi, la speranza di vita più alta alla nascita si ha nelle province di Trento, nelle Marche, nella provincia di Bolzano, nel Veneto, nell'Umbria, nella Lombardia, nell'Emilia Romagna, cioè le zone più, virgolette, contaminate, dove l'aria è peggiore. Le ultime sono la Puglia, il Lazio, la Calabria, la Sicilia e ultima la Campania. Dove, come si capisce, una interrelazione, non una causalità, sempre attenti a distinguere le interrelazioni dalla causalità. La causalità è un'altra cosa dal punto di vista scientifico, ma magari un'interrelazione si può fare tra il reddito pro capite e non l'inquinamento sulle aspettative di vita, perché guarda caso le aspettative di vita in Italia, ma è così nel resto del mondo da che conosciamo le serie storiche, è pesantissimamente influenzata al reddito pro capite, perché il reddito pro capite significa il tipo di alimentazione, l'attenzione ovviamente maggiore perché hai più risorse al benessere, all'attività fisica eccetera eccetera, però è il reddito pro capite, non l'inquinamento dell'atmosfera. Anche qui ci sono le patologie, ma ripeto, intanto migliorano nel tempo molto significativo dagli anni 70 a oggi, e non ce lo dimentichiamo, non viviamo in un mondo che si sta inquinando di più ma di meno nei paesi avanzati. E secondo, le attese di vita italiane, come vedete, non ci dicono il fatto che si muore di più e prima laddove, pure bisogna ammettere che tra vicende orografiche e emissioni l'inquinamento atmosferico è maggiore. Ma soprattutto nelle grandi città c'è un altro dato che richiamavi sul fatto che il più poi di quello che c'è nell'aria delle città, quando magari c'è l'alta pressione ce n'è ancora di più, non viene dalle città. È stato fatto una stima dal RSE, che è una società pubblica di ricerca in campo energetico, ha rilevato su Milano che delle polveri fini di Milano solamente il 35-40% è generato dalla città stessa. Il restante 60-65% viene importato tramite le brezzoline, i vari movimenti dell'aria, viene importato dall'Interland, dalle campagne, dall'area allargata della Lombardia. E questo ci dice però che le misure che poi vengono assunte dai sindaci e dalle autorità delle grandi città, dei grandi comuni, non colpiscono il più dell'origine delle polveri. No, colpiscono le zone che respirano, noi che i nostri polmoni che respirano siamo quelli danneggiati dalle misure antismog. Chi invece produce quello smog, una parte, non tutto ovviamente, una parte di quello smog, invece non subisce le conseguenze di ciò che fa. Allora, questo fenomeno, purché, per non farvi pensare che come al solito Giannino ce l'ha con l'Italia, pensa che noi siamo tarati del DNA, è un fenomeno, quello descritto attraverso i numeri richiamati da Jacopo Giliberto, è un fenomeno diffusissimo in tutto l'Occidente, cioè l'utilizzo di stime in maniera impropria per inseguire fenomeni particolari che esistono, trasferendo a livello del pubblico di massa impressioni infondate. Tanto è vero, noi capita ogni tanto come istituto proprio di occuparcene. A febbraio l'intero Regno Unito fu messo sotto sopra nel giro di 48 ore da una stima che venne pubblicata dal Daily Mail e poi rilanciata da tutta la stampa popolare britannica, al Sun e così via, secondo la quale c'erano 40.000 morti stimati nel Regno Unito per il solo fattore dell'inquinamento atmosferico, e anche in quel caso ci furono poi revisioni del dato. Spiegare che quella cifra, che è ovviamente incredibilmente elevata, in realtà si deve a delle stime derivanti da indagini su un campione di popolazione a distanza di 10, 20 e 30 anni, quando ci sono i censimenti, e proiettate poi su una stima del tutto discutibile dei fattori in base ai quali associare, non in maniera causale, alcuni tipi di patologie che portavano nel tempo alla loro morte, ecco, e questo è un esercizio che è ben fatto da un fisico statistico che noi conosciamo, si chiama David Spiegelhalter, che ha bisogno di 12 pagine fittissime di dati, ma arriva poi alla conclusione, tanto per farvi capire come spesso l'utilizzo dei dati e delle stime è improprio, che a questo 40.000, a questi 40.000, sommando il particolato e gli ossidi di azoto e CO2, si arrivava con una variazione di stima, un coefficiente di variazione della stima che poteva andare da 6.000 a 52.000. Allora capite che a quel punto, questo facendolo in maniera statisticamente scrupolosa e corretta, e invece tutti i giornali riportarono 40.000 morti, la sconfitta di tutto ciò che ci viene raccontato come le politiche di tutela ambientale per la riduzione delle emissioni. Allora, concludiamo questa prima parte non solo ringraziando Jacopo Giliberto, ma sperando, questo lo dico io, che quelli come lui siano sempre più diffusi nelle redazioni. Cari direttori, cari capi redattori e capi servizio, c'è bisogno di colleghi capaci non solo di andare sulle fonti a prendere i numeri, ma che facciano della fattualità numerica il criterio che viene prima delle opinioni, degli editoriali, eccetera eccetera. Per me viva quelli come Jacopo Giliberto. Grazie a te. Grazie a tutti. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La la versione di Oscar. Buon pomeriggio, eccoci tornati in diretta, voglio dire. Però detto questo, nel frattempo il congresso del Partito Comunista, che è in corso, è iniziato ieri con questa relazione di 203 minuti di Xi Jinping, è completamente offuscato invece dallo smog. Lì il problema è effettivamente non solo presente, ma ben più serio di quanto non sia qui, e questo spiega l'accelerazione degli investimenti in termini di decine e decine e decine e decine di miliardi di dollari, trasversale su tutta l'industria pesante e il settore dell'automotive da parte dei cinesi. Però, per dire, non dimentichiamoci che il problema c'è più grave altrove. Noi stiamo migliorando, nel mondo meno avanzato purtroppo c'è ancora, ma il più dei problemi dell'inquinamento irrisolto lì dipendono dalle acque inquinate e dall'inquinamento dovuto alla densità urbana in assenza di strutturazioni elementarmente necessarie come le fogne e così via. Cambiamo argomento, ma il filo rosso è sempre lo stesso, cioè la tutela della salute. Perché è lo stesso? Stiamo parlando della pasta, per capirci, di una polemica che è aperta nel nostro paese intorno a gli obblighi di etichettatura con i quali si prevede un'informativa dettagliata della provenienza dei grani per realizzare la pasta nel nostro paese. Ce ne siamo già occupati una volta tempo fa, e questa polemica vede da una parte per esempio la Coldiretti, che accusa i produttori di pasta italiana di non volere, di avere delle obiezioni, di impugnare quanto sarebbe previsto per la dettagliata indicazione della provenienza dei grani, e la Coldiretti a cosa accosta e su cosa fonda la sua accusa. Accusa i produttori di pasta, ed ecco tornare quindi il filo rosso con la prima parte in cui abbiamo parlato dei rischi per la salute di allarmi come quelli attorno in questi giorni, esattamente di essere indifferenti o di sottovalutare il rischio per la salute del consumatore, di chi compra la pasta e la mangia, in presenza di grani di particolare provenienza nei quali c'è una percentuale di glifosato accusato di essere cancerogeno e per questo proibito nel grano di produzione italiana. Quindi, come vedete, la contesa ancora una volta ha a che vedere con la stima della presenza di sostanze rischiose per la salute. L'accusa in questo caso è però rivolta a chi produce e vende nel nostro paese, ed è un'accusa di un certo rilievo, nel senso che io penso che se fossi io a produrre non sarei del tutto interessato alla scomparsa del consumatore del mio prodotto. Ma non si può affrontare la faccenda con una risata o una cosa generale di questo tipo. Vi leggo, prima di presentare il nostro ospite, ciò che la Coldiretti ha detto ieri in proposito. Siamo certi che, è la nota ufficiale della Coldiretti, la magistratura potrà ben valutare il primato degli interessi dell'informazione dei cittadini su quelli economici e commerciali. Ancora una volta la rappresentanza industriale dei pastai preferisce agire nell'ambiguità contro gli interessi dell'Italia e degli italiani che chiedono trasparenza. Si vuole impedire ai consumatori di conoscere la verità, privandole di informazioni importanti come quella di sapere se nella pasta che si sta acquistando è presente o meno grano canadese trattato in preraccolta con il glifosato, cioè la sostanza di cui vi ho detto prima proibita nel grano italiano. Ecco, questa è l'accusa, e per capire qual è la risposta a questa cosa, che cos'è che spinge i pastai italiani a obiettare e a non essere d'accordo, abbiamo con noi il presidente dei pastai dell'Associazione dell'Industria del Dolce e della Pasta Italiana, Riccardo Felicetti. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio, dottore. Allora, noi partiamo dal presupposto che chi ci ascolta non conosce i dati del mercato italiano, non ha idea di quanto grano italiano e quanto importato e di che tipo si usa per produrre la pasta che consumano gli italiani, non ha un'idea delle sostanze proibite qua, proibite là, eccetera. Quindi la prego di dare una risposta che descriva anche un pochino il fenomeno con cui siamo in presenza. Questa accusa, perché la respingete? Allora, innanzitutto io e i miei colleghi non dobbiamo difenderci assolutamente da nessuna accusa. In effetti io non ho nessuna intenzione di rispondere a Coldiretti per quanto riguarda la chiamata in ballo della magistratura o dell'ambiguità nella quale noi ci troveremmo ad operare. Mi sembra invece che i pastai italiani da secoli continuano a operare in maniera talmente trasparente da essere il piatto più amato dagli italiani. Ma a parte questo, veniamo ai dati di fatto. Ecco. Il dato di fatto è che in Italia c'è bisogno di più grano duro di quanto se ne produca in Italia. Quindi la media degli ultimi 30 anni dice che, medie sono tutti numeri che sono non fonte di qualcuno, cioè sono numeri ufficiali dei ministeri dell'agricoltura, che c'è un deficit di produzione di grano duro italiano che balla attorno al 30%. Quindi se si vuole fare tutta la pasta che si fa in Italia e gli italiani, i pastifici italiani, producono un piatto su quattro della pasta che viene mangiata in tutto il mondo, per cui siamo leader dal punto di vista della produzione a livello mondiale, allora dobbiamo importare del grano duro dall'estero. L'accusa che di nuovo Coldiretti ci muove è che si compri grano duro scadente per tagliare il prezzo e costringere l'agricoltura italiana a ridurre il prezzo del suo grano. Primo, rispondo e motivo la situazione. Non tutto il grano italiano è di ottima qualità. Ce n'è di qualità straordinaria, ce n'è di qualità buona, ce n'è di qualità meno buona e ce n'è anche una parte che sulla base della legge di purezza numero 580 del 1967, ripeto 67. Questo per testimoniare di quanto lungo periodo sia la tutela dei prodotti. Esatto, non potrebbe essere utilizzato perché ha tenori proteici inferiori a quello che i padri costituenti di questa legge e i grandi produttori di pasta degli anni 60 decisero che fosse il minimo necessario per un prodotto di qualità dal punto di vista proteico alimentare. Certo. Complimenti. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di portare in Italia anche del grano, prevalentemente del grano straniero che costa di più di quello nazionale, per favorire la possibilità di miscelare anche il grano duro italiano che viene acquistato completamente nella sua completezza tutti gli anni da quando c'è la legge di purezza in Italia e viene utilizzato anche in miscela con grani duri stranieri. Solo che se facciamo del terrorismo agricolo senza che le istituzioni muovano un passo solo a garantire che i loro funzionari alle dogane, al NAS, alla forestale, eccetera, che controllano regolarmente tutta la merce in importazione. Ripeto, se le istituzioni non garantiscono pubblicamente che il grano che entra in Italia è buono, sano e genuino e quindi ci garantiscono con un milione all'anno di analisi che questo grano è buono, noi siamo soggetti lesi, siamo parte lesa, esatto. Non siamo mica i cattivi, brutti e affamatori o avvelenatori del pubblico. Poi, altra cosa, si parla di glifosate, sì. Ok? Perfetto. Se lei prende un'indagine fatta all'inizio maggio del 2016 da Panorama, si troverà con una dichiarazione, con un articolo ben dettagliato che dice che nelle faglie acquifere italiane, no? Si trova tra il 60 e il 95% di contaminazione. Perfetto. Non è una contaminazione pericolosa, perché è centinaia di volte inferiore a quella che è la soglia dettata da EFSA. E allora le dico che per raggiungere la soglia dettata e sancita da EFSA per quanto riguarda il glifosato nella pasta, dobbiamo mangiare 1000 piatti di pasta al giorno 365 giorni all'anno. Allora possiamo preoccuparci di quello che è l'influenza del glifosato sulla nostra salute. Quindi mi verrebbe da dire, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una predica fine a se stessa, assolutamente inutile e con un pesantissimo retroscena dal punto di vista internazionale. Perché la figura barbina, per non dire altro, che stiamo facendo all'estero nei confronti dei nostri clienti, dei nostri fruitori, utilizzatori finali di pasta italiana all'estero, avrà degli effetti dirompenti sulla nostra bilancia economica. Ricordiamoci che la pasta fa da locomotore di tutto il food italiano, che riguarda il primo piatto all'italiana, per cui tutti i sughi di pomodoro, tutte le verdure, tutta la mozzarella, tutti i prodotti che vengono utilizzati, italiani, di origine italiana, che vengono utilizzati per comporre il primo piatto all'italiana in tutto il mondo. E in questo momento, nei primi 6 mesi di quest'anno, i pastifici italiani, anche grazie a questa campagna totalmente denigratoria e infangatoria, hanno perso il 5% della loro concorrenzialità e per la prima volta in 50 anni non abbiamo avuto una crescita di fatturato. Chi dobbiamo ringraziare? Non lo dica, ma a me quello che preme sottolineare, cari ascoltatori, che tutto questo, io mi prendo responsabilità di quello che si basa su l'ampliamento sull'informazione dell'effetto psicologico di questa accusa, cioè dei rischi a cui sarebbe esporre il consumatore, senza dire che le presenze certificate dagli esami di laboratorio, dalla sanità alimentare italiana, eccetera eccetera, ecco, le presenze di tracce di glifosato quando ci sono sono dalle 100 alle 1000 volte inferiori ai limiti di legge. E questo, chi lancia questa accusa gravissima, che ha gli effetti economici anche che abbiamo appena ricordato il presidente Fricetti, lo sa benissimo. Ancora una volta, come vedete, il disprezzo dei numeri per ondate psicologiche che hanno degli effetti. Questo è l'interesse di parte, me lo dico io, è evidente che Coldiretti mira ad alzare in questo modo il prezzo di una quantità di grano di ottima qualità che però non basta da solo la produzione italiana, e mira ad alzare il prezzo per quello, punto. Però non c'entra la salute, è chiaro, cari ascoltatori, i numeri manipolati. Intanto grazie al presidente Fricetti, noi torniamo dopo il traffico. La versione di Oscar. Eccoci qui, abbiamo il tempo per qualche telefonata da parte vostra dopo queste due parti, la prima dedicata all'approfondimento. Ma è vero che l'allarme di Torino, siamo più inquinati di prima nell'atmosfera? No, non siamo più inquinati, ma molto meno, e spesso queste le stime sono, come abbiamo visto, manipolate, poi ovviamente quando le si corregge non hanno lo stesso impatto. E uguale il fenomeno delle accuse a chi produce pasta in Italia, cioè voi volete aggirare il rischio del glifosato che è cancerogeno, neanche per idea. Però intanto questa è la modalità con cui si fa dibattito pubblico nel nostro paese. Sentiamo intanto come la pensa Giusi, che ci chiama da Bergamo. Giusi, prego. Buongiorno Oscar. Allora, io, e buongiorno ai radioascoltatori naturalmente, sì. Ho due osservazioni da fare rispetto a quello che il suo ospite aveva detto prima, nel senso che le auto nel passato inquinavano di più di quelle sì. attuali. Io parlo della mia città, Bergamo, che avendo 10 milioni di passeggeri che vengono nel nostro aeroporto, essendo ormai uno Orio dei primi classifici, sì. Esatto, quindi ha 10 milioni di passeggeri che la maggior parte arriva naturalmente con la propria auto. In una provincia che fa 1 milione di abitanti è indubbio che inquineranno di meno le auto, ma le auto sono molto aumentate rispetto a quando non c'era l'aeroporto. Di concentrazione, non c'è dubbio. Esatto, questa è l'osservazione che volevo fare. Insomma, Io non so, io lavoro in ospedale. No, e... no, ma in presenza di fenomeni di concentrazione di quel tipo non c'è dubbio, ecco, che in quel caso ci siano maggiori emissioni. Resta il fatto che il parco del circolante, purtroppo per oltre il 50% fatto ancora da veicoli troppo vecchi nel nostro paese, ma le versioni degli ultimi anni delle auto emettono molto meno. Io ricordo a tutti che siamo impegnati nello scendere sui 90 grammi di CO2 di emissione chilometro e poi ancora più basso. Adesso bisogna vedere come modificarli alla luce del fatto che il diesel arretrerà moltissimo e vediamo quanta parte di ibrido entrerà nel mercato italiano. Attualmente siamo ancora pochissimo, cioè si vendono meno macchine elettriche in Italia nel 2016 è stato di quanto non si siano vendute le Ferrari. Però è vero la concentrazione, ma è vero che in termini di emissione la quantità è molto scesa. Allora mi dispiace perché non c'è tempo per Roberto Da Lucca, intanto appuntamento domani dalle 10 alle 12 ai Conti della Belva come Carnevale Maffè, Seminario e Renato Cifarelli. Domani due grandi argomenti: Banca d'Italia e l'alternanza scuola-lavoro. Hanno ragione i giovani a dire no, oppure ne hanno metà ragione? Ma ne parleremo con voi e anche con loro, con ospiti giovani. A domani.